sì, a Cuba ho fatto una santeria, mentre in Brasile ho fatto una macumba. Ne ho fatte due o tre le macumbe, poi mi hanno consigliato di non farle più, effettivamente, le macumbe. Allora, in Brasile ci sono le macumbe per i turisti. Tu vai a Rio de Janeiro, ci sta qualcuno che ti dice vuoi vedere la macumba, e poi è falsa, è completamente falsa. Io però, sta macumba è una cosa antica, è forte la macumba. C'è quella bianca e quella nera. Con quella nera riesci pure a formare alle persone. In continuazione si trova per strada teste di galle, di galline, inghiottate sui muri. E io ho fatto la macumba bianca. Allora, ero in Brasile, sono andato a fare un locale a Maurizio della Fornacella, un ristorante che si chiamava Amarcordo, pare. Fellini. E io aveva affittato una casa coloniale e io l'ho trasformata in ristorante. Una cosa molto bella, molto interessante, fatta con molto piacere. E avevo un gruppo di operai, una quindicina, muratori, elettricisti, idraulici, che erano del posto locale. E ho chiesto se si poteva, qualcuno sapesse dove si poteva vedere la macumba, e nessuno mi diceva niente. Maurizio Fornacella aveva un cliente, lui, la moglie, la figlia, perché la figlia di questo signore era la fidanzata del suo socio, ed era un preside di un istituto scolastico, quindi una persona colta. Io niente bene, gli dovessi trovare un libro, La peste di Camus, mi pare che gliela mandai, perché non lo potevo trovare. Doveva essere una persona colta, intelligente, tutto, e veniva tutte le sere da Maurizio Fornacella. E in quel periodo c'era Irma, la moglie di Maurizio. Allora un giorno un operaio, Guido, Giorgio, mi prese da parte e mi dice: Gianca, guarda che domani sera c'è una macumba a casa mia. Mamma mia, dico, vengo. Ok, domani sera quando smetti a lavorare, andiamo. E il giorno dopo io e Irma saremmo ripartiti per l'Italia. Quindi dico, alle 9. Andiamo alla macumba, dico alle 10 sarà finita, torno al ristorante e sto insieme anche a questa famiglia, grandi amici di Maurizio Fornacella e Irma, ma grandi amici, così li salutiamo che domani partiamo. Quando fa la macumba, invece non era un'ora, due ore. Quindi la macumba si svolge in questa maniera, c'è una stanza dove c'è molta musica, solo tamburi però. In questa serata c'era un vecchio cieco e un bambino 11-12 anni che si dava il cambio. Si deve fumare molto sigarette, che bisogna riempire la stanza di fumo, e si beve cachaça. A un certo punto arriva la macumbera, la vecchia macumbera, vestita tutta di bianco, che fa un bagno di profumi, ma di quelli scadenti, che si sente a un chilometro. Arriva la macumbera, quella che deve evocare la divinità, e insieme a altre 7-8 vecchie accompagnate dalle nipotine, che sono tutte vecchie che non riescono a camminare. Allora, in questa sala tutte le ragazze vestite di bianco, vuol dire che sono vergini, se no non possono stare. E ci stanno 50 persone. Quindi comincia il rito che la vecchia macumbera chiama l'entità chiamata Ciangò, Emanjá, Ochun, le divinità africane. E entrano queste divinità e la vecchia macumbera te le passa nelle mani e tu le senti queste energie particolari. Se è negativa te la caccia fuori, se è fino a quando non è positiva lo caccia, ma si sente una cosa. A un certo punto, quando arriva l'entità invocata, sai che la vedi, qualcuno va in trance. Va in trance la signora, che comincia a storcere gli occhi e a muoversi in maniera particolare, quindi capiscono che la divinità è in lei. Allora la mettono al centro della stanza, gli tolgono orecchini, bracciale, catenini, che possono essere corpi contundenti, perché poi lei si comincia a rotolare per terra, vabbè, è sembra indemoniata, invasata. E poi a un certo punto si inginocchia e l'entità è disponibile a essere interrogata. ma quando si beve i girosacchi, girocchiarsi, sputò la lentiera e con gli occhi sbarrati. La macumba è che una volta che viene l'entità, tu gli chiedi come può risolvere il problema che hai, tipo un mutolo, ma lei parla africano e la persona che viene presa dallo spirito non parla africano, quindi io gli dico cambia voce, cambia faccia, cambia atteggiamento, e una signora, una del gruppo, stava sempre la macumbera, che conosce l'africano, si mette a fianco a lei girocchiata e vanno lì a chiedergli delle cose in brasiliano, ma questo risponde in africano e la macumbera ti traduce quello che ha detto. Dice se potevo farlo anch'io, ma sì, certo, mi sono inginocchiato e in spagnolo dissi, in portoghese,